tanto tempo che sto piavo io vedevo timido a ronzar e il toser ne piaceva tanto tanto ma coraggio non c'aveva de parlar. Ma una sera ya me passa in gringo ya con un far che proprio non me va. De colpo co pensai aga amoroso geosa e ora mia go fermar. Dove ti va ninetta così depressa così de gaia de buon umore? Vago coltoso in gondoeta sui ai aguna pari amor. Voglio saper ninetta chi sei stotoso che in gondoeta te vuol portar. Mi no te dico chi che me spetta cosa ti importa se in gondoeta mi voglio andar. Oh ninetta non sta andar via morirò de crepa cuor senza de ti. Dito una bugia spetto un toso questo sì ma quel toso ti sentì. Demo a sognar ninetta sui aiaguna al ciardei una te parlarò te basarò così così, così, così. In gondoeta soi mieti. Dove ti va ninetta così depressa così de gaia de buon umore? Vago coltoso in gondoeta sui aiaguna pari amore. Vuemo saber ninetta chi sei stottoso che in gondoeta ti vuol portare. Mi nove dico chi che mi spetta cosa vi importa se in gondoeta mi voglio andar. Oh ninetta, non sta andar via, morirò de crepa cuor senza de ti. T'è godito una bugia, spetto un toso questo sì, ma quel toso ti sentì. Demo a sognar ninetta, sui aiaguna al ciardei una te parlarò, te basarò. Così, così, in gondoeta soi miei.